24 mattino. E allora alle 18 e alle 17, sì, sono già fuori di testa. Alle 8 e 17 minuti, eccoci qui a 24 mattino, è il momento, Deborah Rosciani, non ridere, è il momento dell'economia. Soldi e dintorni. Eccoci Deborah. Partenza della giornata con te sempre esilarante. Va bene, lo prendo come un complimento. Ma lo è, ci mancherebbe altro. Allora, parliamo come detto prima di estratto conto previdenziale. Sì, esatto, perché oggi. Sai che la parola estratto conto non è che la pronunciamo sempre molto volentieri. E l'estratto conto appunto di cui parliamo oggi non è esattamente quello che ci fa pervenire a casa la banca. Ne parliamo di un altro tipo di estratto conto. Entro il 2010 ogni cittadino riceverà una certificazione annuale sullo stato del proprio conto previdenziale, quindi sulle potenziali prestazioni pensionistiche maturate. Questa promessa, questa assicurazione l'ha fatta mercoledì scorso il Ministro del Lavoro e della Salute, l'onorevole appunto Maurizio Sacconi. L'estratto conto integrativo è previsto dalla legge Maroni, quella che ha disciplinato, come tutti saprete, almeno lo speriamo, ne abbiamo parlato tante volte, il conferimento del trattamento di fine rapporto ai fondi e pensione. In realtà questo estratto conto previdenziale avrebbe già dovuto essere a regime a partire dal 30 marzo di quest'anno, invece non ce l'abbiamo fatta. Adesso cercheremo di capire perché, ma soprattutto in che cosa consiste questo strumento di comunicazione. Questa mattina a capirlo ci aiuta la professoressa Elsa Fornero, docente di economia politica all'Università di Torino, è editorialista del Sole 24 Ore, ma soprattutto è uno dei massimi esperti di previdenza nel nostro paese, anche membro del nucleo di valutazione della spesa pensionistica in Italia. Professoressa Fornero, buongiorno, benvenuta a Soldi e Dintorni. Buongiorno a lei e a tutti. Allora, anche in Italia, quindi, come peraltro avviene già in altri paesi d'Europa, i lavoratori riceveranno la cosiddetta busta arancione, no? È così? Sì, è così. Diciamo che è una buona notizia, anche se è tardivo come provvedimento, ma comunque, come si dice, meglio tardi che mai. Questa busta è molto importante per permettere alle persone di programmare, diciamo così, il loro risparmio per l'età anziana. Le pensioni fanno parte di questo risparmio, le pensioni sono il pilastro fondamentale del sostentamento nella vita anziana e siccome le formule per calcolare la pensione sono molto cambiate, adesso è molto più difficile per le persone stesse, per i lavoratori, capire con quante risorse andranno in pensione. Ecco, questa busta conterrà questa informazione. Ecco, peraltro, quello che va precisato è che in realtà al momento, se noi ci rivolgiamo al nostro ente previdenziale, possiamo già avere informazioni sulla nostra situazione. Quindi qual è la differenza rispetto a questa novità? È che in questo momento, da quello che posso percepire, l'ente previdenziale avrà l'obbligo di farci questa comunicazione, quindi non saremo più noi come dire, contribuenti a doverci attivare e a chiedere all'ente previdenziale a che punto siamo dei nostri versamenti, per esempio. Diciamo che l'INPS è un istituto abbastanza efficiente, ma tutti gli ascoltatori sanno che non è propriamente facile, nonostante tutti promettano sempre di migliorare la situazione, non è molto facile ottenere informazioni e pensi se tutti i lavoratori chiedessero all'INPS qual è la loro posizione. Non so che tipo di risposta avrebbero, quindi è un passo avanti, diciamo, nella trasparenza. Queste informazioni, che peraltro sono informazioni molto importanti nella vita delle persone proprio per permettere loro di programmare i loro risparmi per il futuro, questo diventerà un fatto di trasparenza e, se vogliamo, anche di democrazia. È un fatto che sarà dovuto dall'amministrazione e che è semplicemente una informazione che l'amministrazione non si capisce perché non deve dare. In altri paesi non si celebra questo evento, è un fatto normale. Da noi arriva tardi e siamo contenti che arrivi finalmente, e denota il fatto che la nostra amministrazione non sempre è sensibile alle esigenze dei cittadini. Ecco, ci può dire, secondo quello che è possibile sapere fino a questo momento, teoricamente quali informazioni dovrebbe contenere questa comunicazione? Quindi abbiamo capito in prospettiva quella che dovrebbe essere la nostra pensione e quindi in qualche maniera è una comunicazione che anche dovrebbe invitarci a studiare quella che potrebbe essere o dovrebbe essere la forma di previdenza complementare più adatta alle nostre esigenze, perché sappiamo già che nel futuro, fra 20-30 anni, insomma, la pensione pubblica sarà sempre più più contenuta, più ridotta? Guardi, la cosa, per spiegarla in maniera semplice, è così. Prima, fino a oggi, diciamo, le pensioni erano calcolate secondo una formula molto semplice che chiunque poteva avere in mente. Lavori un certo numero di anni, supponiamo 35, vai in pensione con il 2% di una retribuzione che è quasi quella finale, e quindi tu sai che vai in pensione col 70 oppure con l'80 se lavori 40 anni della retribuzione finale. Questa formula è stata abbandonata, non stiamo a spiegare perché, non era sostenibile finanziariamente. La formula di domani dice semplicemente questo: che ogni euro versato come contributo conta nel determinare la pensione. Quindi l'informazione che il lavoratore riceverà sarà quella che dice: tu hai versato complessivamente tutti questi soldi, tu e il tuo datore di lavoro ovviamente, hai versato questi soldi. Noi ti abbiamo riconosciuto questo tasso di interesse, che non è un vero interesse perché dipende dalla crescita del prodotto interno lordo. Il tuo capitale quindi ammonta questo, esattamente come un altro conto. Uh-huh. Questo è un conto pensionistico, ma il meccanismo è lo stesso. E poi si dice, guarda, che se tu continui a versare fino, supponiamo, all'età di 60 anni con questo ritmo, quando andrai in pensione a 60 anni la tua pensione sarà di questo ammontare. Quindi una persona ha la percezione di quale sarà la sua pensione perché sa quanto ha versato e sa che cosa deve versare per arrivare a quel livello. È ovvio che siccome le pensioni del futuro saranno più basse, l'informazione di avere una pensione più bassa induce una persona a dire: come faccio a integrare il resto, come faccio ad avere quello che non ho più, diciamo, rispetto alle pensioni del passato dallo Stato. E allora l'idea è, l'informazione è anche importante perché la gente possa farsi una pensione complementare attraverso i fondi pensione. Ecco, nell'obiettivo, professoressa Fornero, c'è, mi pare di capire, anche di far diventare questa comunicazione annuale, perché chiaramente le situazioni personali possono cambiare, le aspettative di vita continuano ad allungarsi nel nostro paese, che diventa per fortuna sempre più vecchio, e quindi teoricamente, nella pratica è una comunicazione che comunque dovrà essere annuale, quindi periodica, costante. Come ogni altro conto, quando si lavora e si versa, quindi continuando la vita lavorativa, si aggiungono contributi, e ripeto, ogni euro che si versa conta, questi contributi si accumulano. E poi l'altro elemento importante è l'età di pensionamento. L'età è importante perché se io vado in pensione giovane, a parità di soldi accumulati, di contributi accumulati, ho un periodo davanti più lungo e quindi la mia pensione è più bassa. Questo elemento che riflette l'aspettativa di vita all'età di pensionamento una volta non c'era, non c'è ancora nelle pensioni di oggi, ma ci sarà nelle pensioni di domani. Ed è fatto proprio perché la gente capisca che un conto è andare in pensione a 65 anni e un conto è andare in pensione a 60. Si vive mediamente di più e quindi se si ha la stessa, lo stesso capitale accumulato, si ha diritto a una pensione più bassa. Professoressa Fornero, noi abbiamo terminato, 10 secondi solamente per un ultimo commento. Ce la facciamo secondo lei per il 2010 a ricevere questo documento? Ma io l'auspicio del ministro sarà parte raccolto. Di quella che è chiamata la modernizzazione del paese, ma io la chiamerei proprio la maggiore vicinanza dell'amministrazione. Non è impossibile oggi, e ripeto, l'INPS non è il peggiore dei nostri enti pubblici, e quindi mi auguro di sì. La ringrazio molto, buona giornata. Grazie a lei. Grazie molto alla professoressa Elsa Fornero. Alessandro. E allora tra poco con Salva Danaio ritorniamo sui mutui, ancora un po' ad esplorare la situazione, tasso variabile, tasso fisso, che facciamo? Alle 8:32, ben ritrovati da Alessandro Milan. Diamo uno sguardo alle notizie in primo piano. Il G8 di luglio all'Aquila e non più sull'isola della Maddalena è l'annuncio di ieri del premier Berlusconi, che dice: così risparmieremo soldi e i No Global non avranno coraggio di protestare. A protestare sono invece gli amministratori sardi. Oggi il governatore Cappellacci vedrà Berlusconi. Intanto ieri al Consiglio dei Ministri all'Aquila si è approvato il primo decreto per l'Abruzzo, 8 miliardi stanziati in 3 anni per la ricostruzione. Nel futuro della Fiat potrebbe esserci anche la Opel, oltre alla Chrysler. La Fiat, scrive oggi il Sole 24 Ore, è pronta infatti all'offerta a General Motors per le attività della casa tedesca. In caso di doppio accordo nascerebbe un gruppo da 6 milioni di auto l'anno. La cronaca: Erika De Nardo, che insieme al fidanzato Omar uccise il fratellino e la madre nel 2001, si è laureata in carcere. 110 lode con una tesi su Socrate. La dedica a tutta la mia famiglia. Infine il calcio: dopo la Lazio e la Sampdoria, l'altra finalista di Coppa Italia, i blucerchiati hanno perso 1-0 a San Siro con l'Inter, ma sono passati grazie al 3-0 dell'andata. E allora, alle 8:33 minuti, 349-238-6666, la notizia del giorno e l'apertura di tutti i giornali e l'annuncio a sorpresa ieri di Silvio Berlusconi. Pensate che anche il ministro della difesa, La Russa, poco prima di entrare nel Consiglio dei Ministri all'Aquila, pare abbia detto: il Consiglio, il G8 all'Aquila, non ne so nulla. E poi l'annuncio. Oggi Francesco Verderami sul Corriere scrive: il Cavaliere ha detto certe scelte vanno fatte con una specie di visionaria follia. C'è chi dice visionaria follia, c'è chi dice no, una follia vera e propria. Io vorrei chiederlo al sindaco della Maddalena, Angelo Comiti. Sindaco, buongiorno. Buongiorno a lei. Lei da ieri è entrato in un frullatore di telefonate, interviste, interventi, riunioni. È passata la notte porta consiglio. Lei che dice? Beh, dico quello che in qualche modo ho detto a botta calda ieri. Mi sembra una scelta sinceramente molto molto discutibile e molto molto opinabile da parte del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Consiglio dei Ministri. Dico questo perché il G8 alla Maddalena non è capitato per caso. Il nome del comune di La Maddalena non è stato estratto da un'urna dove c'erano dentro tutti i comuni italiani. Il G8 alla Maddalena faceva parte di un progetto voluto dal governo, anzi da due governi, dal governo Prodi e dal governo Berlusconi, per risarcire, fra virgolette, questa città dal grande tributo che ha dato alla nazione sul tema della difesa, sia nazionale che internazionale. Vorrei ricordare che noi abbiamo ospitato in questo arcipelago, che è un parco nazionale, per 35 anni sommergibili a propulsione. Certo. Americani. Però c'è la ricompensa, sarebbe questo summit sull'ambiente di settembre, cioè a dire tutti i lavori vengono mantenuti perché faremo altro a settembre. Sì, ma questo intanto è tutto da vedere. Comunque sia, io rilevo da subito un problema di carattere politico, che è quello del quale parlavo prima, e anche un problema di carattere istituzionale. Non è assolutamente possibile che nell'Italia della modifica del titolo quinto, della sussidiarietà, della pari dignità fra istituzioni, improntate al principio di collaborazione fra gli organismi istituzionali dello Stato, un Presidente del Consiglio si svegli una mattina e decida di fare un'operazione di questo tipo, che non è spostare, guardi, una cena di compleanno fra vecchi compagni di scuola che si ritrovano. Il G8 è un problema molto complesso. Ecco, lo decida senza assolutamente mettere al corrente di questa cosa il Presidente della Giunta regionale, io non dico il Sindaco di La Maddalena perché non ho questo tipo di pretesa, ma almeno il Presidente della Giunta regionale doveva essere messo al corrente. E vediamo, guardi, siccome Sindaco, con noi c'è il Sottosegretario alla Difesa Guido Crosetto. Onorevole, buongiorno. Buongiorno. Buongiorno. Senta, ha detto no, magari il Sindaco della Maddalena no, però il Governatore Cappellacci, che effettivamente non era stato informato, è stato informato dopo, ma abbiamo sentito anche il Ministro La Russa, pare non lo sapesse prima di entrare in Consiglio dei Ministri. Ma insomma, che cos'è? La visionaria follia di Berlusconi, come ha detto lui stesso? Beh, lui l'ha chiamata così, ma è una decisione, un'idea venuta evidentemente, come si desume, all'ultimo momento, ma è venuta per una doppia necessità. Cioè, lui ha detto da una parte siamo a costi eccessivi, ma io penso che la motivazione principale fosse quella di dare un segnale a una parte ferita della città, dell'Italia, sapendo che dall'altra parte non avrebbe neanche danneggiato eccessivamente la Maddalena, perché le opere alla Maddalena saranno finite, perché gli investimenti che sono stati fatti, quelli che devono finire andranno avanti, perché comunque la visibilità attraverso l'incontro sull'ambiente ci sarà anche la Maddalena, quindi da una parte tentativo di aiutare ancora di più l'Aquila e dall'altra parte la consapevolezza che non è che si è abbandonata la Maddalena. Però ho sentito il sindaco, dice c'era una questione di risarcimento, il contributo che abbiamo dato in decenni. Poi voglio dire, almeno potrà capire insomma l'amarezza, dice uno pregusta il G8, arriva Obama, adesso si ritrova con niente insomma in mano da un momento all'altro. Capisco totalmente la posizione del sindaco, io ho fatto 14 anni il sindaco, quindi riesco a capire cosa può voler dire una città, dire ma pensavamo di avere questo evento importantissimo, ripeto, soprattutto come visibilità internazionale, perché la parte di interventi strutturali, cioè la parte di risarcimento, come l'ha chiamata il sindaco, infrastrutturale, la Maddalena l'avrà lo stesso e avrà una parte anche di visibilità con il vertice sull'ambiente. Mi scusi Crosetto, ma la decisione secondo lei è definitiva? Perché insomma pare che dall'America stiano decidendo, ma hanno dato un assenso di massima, così dalla Gran Bretagna, ma e siamo sicuri che si terrà l'Aquila secondo lei? A oggi sì. Abbiamo visto che dall'oggi al domani come dallo ieri all'oggi cambiano le cose insomma. A parte gli scherzi, quella struttura dove si è deciso di farla all'Aquila è una struttura di 45 ettari, cioè la caserma finanza lì insiste su un'area di 45 ettari, è pienamente sufficiente ad ospitare tutte le cose collegate al G8. Quindi sì. Ricordo, il G8 nasce come un incontro quasi informale tra due o tre persone, poi tre, poi quattro, poi cinque, poi sei, adesso è diventata una cosa con decine di migliaia di persone, ma che poi è un evento che non è che duri due mesi. No, dura tre giorni. Esatto, vorrei chiedere al sindaco Comiti, sindaco, ma cos'è più l'amarezza di essere stati, ha sentito il sottosegretario Crosetto, dice che tutte le rassicurazioni, verranno fatte le opere, le compensazioni, insomma tutto ciò che è stato promesso alla Maddalena rimarrà. Che cos'è allora più un'amarezza di essersi visti sottrarre, che ne so, Obama? No, guardi, non è un fatto personale, non riguarda questa cosa. Intanto io rispetto moltissimo il sottosegretario Crosetto, ma tutte le cose che lui ha detto devono essere sottoscritte e a noi devono essere date delle assicurazioni e delle certezze che quelle cose che diceva il sottosegretario vadano a buon fine, perché noi abbiamo collegate al G8 tutta una serie di opere collaterali, tipo la riqualificazione del fronte mare cittadino, la riqualificazione del centro storico, che erano in conferenza di servizi il 26 di questo mese, è stata spostata al 29. Ora io non riesco a capire, senza i caratteri d'urgenza e la straordinarietà dell'evento G8, se tutte queste opere verranno realizzate, e ci sono notevoli difficoltà a comprendere come il comparto ad est della città, che interessava l'ex arsenale militare, l'ex ospedale militare, possa arrivare a compimento. E poi vorrei dire in ultimo una cosa. Le opere che si stanno facendo sull'area ad est della città, che era un'area occupata dal Ministero della Difesa sino a due anni fa, sono state concepite, se non totalmente, ma in parte, in funzione di questo evento. Cioè il main conference, l'albergo dentro l'arsenale, è stato fatto in funzione dello svolgimento del G8 dentro quelle strutture, altrimenti si sarebbero potute fare anche delle scelte di carattere progettuale diverso. Ora, di punto in bianco viene spostato il G8 all'Aquila. Ma lei ci crede? Lei ci crede? Cioè nel senso ci crede? Guardi, voglio dire, lei confida? Guardi, io ho ricevuto tutte le delegazioni di tutti i paesi qui già alla Maddalena. Lei pensi che ho scritto una lettera a tutte le ambasciate, già mi stanno arrivando le bandiere ufficiali, ecco, siamo a questo livello. Beh, certo, era tutto avviato, è chiaro, mancano due mesi, voglio dire. Sì, ma mi rendo conto anche del meccanismo immane che si mette in moto nei confronti di queste questioni, ha capito? Quindi non sono robe di poco conto. Io direi, ma non è più opportuno, non è più congruo, non è più confacente nell'eventualità in cui si voglia dare visibilità all'Abruzzo per questa immane tragedia. Magari fare il summit sull'ambiente a settembre all'Aquila o in Abruzzo e fare il giro alla Maddalena, perché deve, è già pronto. Non lo deve dire a me, credo che lei si debba presentare forse al prossimo Consiglio dei Ministri, dirlo a Berlusconi, perché sa, magari le dà retta, non lo so. Io le chiedo però, lei confida ancora di avere il G8 alla Maddalena, quello di luglio, oppure no? Secondo lei? Io ci confido ancora e spero molto nell'intervento del presidente della giunta regionale Cappellacci, che a questa prima prova importante deve dimostrare di essere il presidente dei sardi e deve dimostrare che in qualche modo l'autonomia dal punto di vista politico su protocolli concordati deve essere fatta valere. E guardi, il presidente Cappellacci è in volo, sta andando credo proprio da Berlusconi. Onorevole Crosetto, io una cosa non l'ho capita, la questione dei no global. Allora, si può discutere per ore e ore se un no global abbia diritto o sia giusta la contestazione al G8, ma non è questo il tema. Non capisco perché non si dovrebbe contestare il G8 se uno è un no global, perché all'Aquila uno mica contesta il terremoto, mica contesta i terremotati. Il no global va a contestare i potenti della terra, secondo una sua logica che io non capisco, però insomma perché non dovrebbe contestare all'Aquila, invece dovrebbe contestare alla Maddalena, a Genova sì, all'Aquila no? Beh, innanzitutto in Europa non sono dei civili gentleman che camminando al luogo del G8 e con degli striscioni, dei cartelli, anche a alta voce urlano a loro dissenso, no? In Europa a cui siamo abituati sono della gente che arriva normalmente col viso coperto e inizia a distruggere il luogo attorno al quale si svolge il G8. La maggioranza delle contestazioni sono contestazioni pacifiche. Assolutamente, ma i no global che preoccupano attorno al G8, cioè non sono i primi, no? Certo, sono i secondi. E allora si auspica, cioè i secondi, cioè non possono, cioè, mi rifiuto di pensare, tranne come ho detto ieri, alcune unità, perché la madre dei deficienti è sempre incinta da questo punto di vista, tranne alcune unità io non penso che possano esserci delle persone che pensano di poter andare a distruggere l'Aquila soltanto perché c'è il G8, no? o a fare manifestazioni di violenza come siamo abituati a vedere in occasione di questi incontri internazionali, per cui questa è la sensazione, non che non ci sia. No, sulla seconda, lei dice su quelle frange estremiste, lei dice non andranno certo a colpire una città già così colpita, già così ferita. Io vi ringrazio, staremo a vedere oggi, credo che sia un'altra giornata importante, perché ripeto, il governatore Cappellacci sta andando a Roma per incontrare Berlusconi, tra l'altro Cappellacci che ieri ha avuto subito chiamato da Berlusconi a dire capiamo il dolore dell'Abruzzo, poi in serata c'è stata appunto la riunione, ha cambiato un po' posizione, ha detto abbiamo appreso con stupore questa cosa, vedrò urgentemente il presidente Berlusconi. Incontro di oggi, ringrazio il sindaco della Maddalena Angelo Comiti, il sottosegretario alla difesa Guido Crosetto. L'obiettivo è quello di mettere un tetto al guadagno dei manager delle società pubbliche, manager pubblici i cui stipendi sono tutti online per la decisione del ministro Brunetta da un po' di tempo. I dati li scriveva Sergio Rizzo sul Corriere della Sera. In Italia ci sono 4.461 società partecipate, 2.291 consorzi, il tutto con 23.410 consiglieri. Allora, un'iniziativa è una proposta di legge a prima firmatario il senatore Maurizio Castro del Popolo della Libertà, che saluto. Senatore, buongiorno. Buongiorno a voi. Allora, io in una riga la traduco così. Lei propone non tanto di mettere un tetto massimo, ma almeno stabilire questa regola: il manager pubblico meglio pagato di una società non può guadagnare più di 20 volte rispetto all'ultimo dei dipendenti della stessa società. Il rapporto 1-20 è così? Proprio così, tra l'altro è un rapporto che in qualche misura è stato giudicato anche dalla miglior letteratura scientifica congruo, ha una platea un po' più ampia come destinatari di quelli della trasparenza Brunetta, perché comprende anche i manager di società che abbiano ricevuto contributi o finanziamenti pubblici, e abbandona la logica un po' dirigista del tetto massimo fisso per utilizzare vuoi il criterio del moltiplicatore, sia una forma di sanzione nell'ipotesi del superamento del tetto soft, perché in un primo tempo si valuta se il superamento abbia delle ragioni congiunturali, organizzative che lo rendono appropriato, e da allora si limita a rendere trasparente al mercato e al pubblico questa operazione. Soltanto laddove l'aumento risulti certificatamente inappropriato, soltanto allora scatta la sanzione. Tra l'altro lei dice il tetto, una disposizione un po' dirigistica. Lo voleva l'ex ministro Lanzillotta, l'aveva messo, però è 247.000 euro, ma tanto ci sono tutti gli escamotage, si sa com'è in Italia, no? per bypassarlo. Io mi metto molto più alto, perché il 20 volte vuol dire nei settori tra i 400 e i 500.000 euro, quindi anche sopra il tetto proposto dalla Lega a 3,50. Comprendo però anche i benefit, comprendo gli stock option program, comprendo la retribuzione globale. Perché per esempio tutti quelli online che ha messo il ministro, non ci sono i bonus, quindi ci sono gli stipendi, ma poi ci sono, sappiamo, qualcosa in più, insomma, che arriva. 1 a 20, interessante, è uno dei motivi per cui, insomma, si dice spesso c'è questa rabbia sociale, per esempio, che vediamo in Francia, perché certo quando i rapporti sono 1 a 30, 1 a 50, 1 a 60, 1 a 200, ecco che nasce una rabbia, ma è giustificata per le manifestazioni con cui si hanno, però il dato di fatto è che c'è. Tra l'altro io vorrei salutare Federico Sassoli De Bianchi, che è presidente della Fondazione Civicum, buongiorno. Buongiorno. Che è nata a Milano, monitora sempre molto attentamente i conti dei comuni, i conti delle partecipate comunali. Che ne pensa, presidente, di questa iniziativa? Sempre che si spera poi, insomma, si concretizzi quella della Lega. Non è andata a buon fine, ecco. Ma guardi, io ho qualche dubbio su questa iniziativa, perché vede, il problema non è tanto di pagare poco o tanto, ma di pagare bene per un risultato che serve. Allora, noi per esempio abbiamo visto che i maggiori 6 comuni italiani hanno 66 società e 523 amministratori e sindaci, in media pagano 44.000 euro ad amministratore e sindaco. Complessivamente questa misura, che io non critico, però temo che non risolva il problema, perché va ad affrontare il tema di alcuni che sono strapagati. Il problema è invece nella massa, perché ci sono tanti che sono pagati magari non cifre elevate, ma che non servono. Cioè le troppe poltrone, insomma, quei 23.000 consiglieri. Vorrei dire questo, che oltre a quelle 23.000, 22.000 società che lei citava, ce ne sono tante altre che sono controllate a loro volta da queste società, e ognuna di quelle ha un numeroso consiglio di amministrazione. E poi sappiamo intervenire sul numero delle società inutili e sulle poltrone inutili. Sappiamo anche chi si ritrova in quei, non tutti, per carità, ma spesso, insomma, sono luoghi per politici magari trombati o ex politici trombati, insomma. Vorrei introdurre un tema che mi sembra importante, colgo l'occasione di farlo anche con la presenza a questa trasmissione, che è quella della competenza. In Italia si considera normale che siano i partiti politici in quota a distribuirsi le poltrone. Questo è inaccettabile. In altri paesi esistono delle procedure per permettere di far emergere il migliore, o almeno tra i migliori. Ma questo è interessante. Senatore Castro, da questo punto di vista, come preservare il merito? Oltre al tetto che dice il presidente Sassoli De Bianchi, certo c'è un tetto, c'è una cosa formale, però il merito, la massa, come se ne viene a capo invece di questa questione? Sono assolutamente puntuali e condivisibili. Sotto questo profilo, la recente riforma Brunetta del lavoro pubblico e della sua efficienza mi sembra vada nella direzione giusta, creando le condizioni per un recupero di efficienza del fattore lavoro nel settore pubblico di circa 30 punti. Siccome la letteratura internazionale ha dimostrato che ad ogni 10 punti di produttività del lavoro pubblico recuperata vengono generati 2 punti di PIL, siamo in presenza di un imponente motore allo sviluppo. Sono 2 processi che vanno legati insieme strettamente, organicamente. Da un lato efficientare le macchine pubbliche, razionalizzare le governance pubbliche, dall'altro però costruire le condizioni perché le aziende pubbliche riscoprano la loro come dire, autenticità comunitaria. Gli scimmiottamenti goffi e ipocriti del privatismo hanno solo portato disastri alle aziende a controllo pubblico. Senta, lei confida che questo suo progetto di legge, sì, perché l'ha presentato, che faccia strada, però sa, quando si toccano questi argomenti la storia ne è piena, noi ne abbiamo parlato, poi di proposte di legge che o si arenano o non trovano l'appoggio politico. Ma guardi, io credo che per la prima volta vi sia il mood giusto, nel senso che la nuova sobrietà, che è diversa dalla vecchia austerità degli anni 70, è diventato un orizzonte culturale condiviso. Ci saranno resistenze dentro la maggioranza e dentro la minoranza, ma complessivamente credo che questo approccio trasversale trovi il giusto consenso. Io sono in questa direzione ottimista, che questa modalità di affrontare il tema possa, insomma, che i tempi siano giusti. Ecco, io vi ringrazio, le faccio in bocca al lupo per questa proposta di legge, tutto ciò che porta a un maggiore equilibrio è da me sposato. Senatore Maurizio Castro, grazie, così come al presidente della Fondazione Civico Federico Sassoli De Bianchi, che poneva l'altro tema, quello certo che andrebbe affrontato in maniera più ampia: troppe poltrone, troppe a politici, ex politici trombati, l'amico dell'amico, e questo si sa è un problema all'italiano. Ci fermiamo qui, tra poco Giuliano Ferrara, parliamo con l'elefante, chissà se si mangerà oggi un kebab con parliamo con l'elefante, si parla di quella proposta di legge, no, che fa discutere il divieto del kebab, ma non solo. Ci fermiamo qui, grazie a Laura Marchesi, Alessandro Marco Tulli in redazione e Filippo Aureggi in regia. A lunedì.